Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. È il 2013 quando il dottor Sergio Canavero, neurochirurgo torinese, rivela: sono in grado di eseguire il primo trapianto di testa al mondo con successo. 15 milioni di dollari per realizzarlo, un'equipe di 100 persone. Occorrerà una cosa multispecialistica, ci saranno tantissime specialità coinvolte. Sul cadavere metteranno a posto le tecniche di riconnessione del compartimento anteriore e posteriore. Il dottor Frankenstein, come ormai accetta di sentirsi chiamare, ci parla di scienziati contestati, esperimenti precedenti su animali. Il prossimo passo sarà davvero il trapianto di testa sull'uomo? Quando l'Unione Sovietica ha mandato Yuri Gagarin in orbita o Neil Armstrong sulla Luna, quali erano le chance di riuscire? Certo è che questa intervista era del 2015, un servizio da Studio Life di Mediaset, e oggi, a distanza di 2 anni, riesce fuori il dottor Canavero, che sta lavorando appunto con uno staff di cinesi in Arizona, quindi è fantastico e suggestivo anche lo scenario, l'ambientazione, l'equipe che ci sta lavorando. Dice che gli è già riuscito con il topo, gli è riuscito con la scimmia, mo è pronto a farlo con l'essere umano. Parleremo anche di questa annunciata scoperta scientifica. Non esiste nessuna evidenza al momento, non ci sono pubblicazioni su riviste serie che diano prova di questa sperimentazione avvenuta, però ci piace immaginare che sia possibile. Diamo per scontato un attimo che, come dice il professor Canavero, dice, nemmeno sarebbe stato plausibile un uomo che va sulla Luna, poi Gagarin ci è andato, quindi oggi sembra impossibile che si possa trapiantare il cervello. Lui è pronto a farlo. C'era prima un volontario, un russo, uno scienziato russo che aveva una distrofia muscolare, quindi aveva bisogno di un corpo nuovo. Poi non si sa perché è sparito, non se ne sente più parlare di questo volontario. Si chiamava Valery Spiritov, non c'è più, non si sa più. Magari è stato già fatto l'esperimento, non si sa. Sono pronti, diciamo, dei corpi cinesi, sembra. In Cina si sa che, avendo l'istituzione della pena capitale, usano molto i cadaveri dei giustiziati per trapianti di organi e cose varie. Esistono delle tragiche e drammatiche cronache del fatto come li preparino prima dell'esecuzione, prima di sparargli. Gli fanno delle iniezioni per poter salvaguardare gli organi che poi dovranno espiantare. Certo è che l'esecuzione capitale in Cina è un colpo di pistola alla testa, il proiettile viene anche addebitato alla famiglia del giustiziato. In questo caso non dovranno sparare alla testa, che non dovranno rovinare il cervello. Scusate il cinismo, ma parlando di qualcosa che è in una zona liminare fra la realtà e la fantasia, sembra impossibile di collocare questo in una realtà, ma non vogliamo metterci il paraocchi. In fondo tutta la narrativa fantascientifica è un pullulare di trapianti di cervelli, dal dottor Frankenstein a un'infinità di altre fiction, di tutta una filmografia particolare, ma poi si potrebbe andare anche oltre. Perché trapiantare soltanto un cervello in un corpo di uomo? Ci sono tanti amanti degli animali, perché uno non vuole diventare una chimera, essere trapiantato in una volpe, in un cammello, in un dromedario, in una foca, in un tricheco? Insomma, ammesso che sia possibile. Il dottor Canavero dice che è facilissimo, dice il cervello non dà rigetto. Stranamente, cioè da rigetto un'unghia, sì, ma la trapianto, il cervello non dà rigetto, quindi il cervello è trapiantabile. Noi fra un po' ci collegheremo con persone per cercare di capire quanto ci sia poi di plausibile nelle ipotesi che questo fosse scientificamente probabile, ma vorrei porvi una domanda. Voi dove siete? Se vi dico dove siete, fermatevi un attimo mentre mi ascoltate la mia voce, state ascoltando la radio distrattamente, state come sempre a quest'ora affettando la cipolla per buttarla dentro al soffritto. Dove vi collocate voi? Vi collocate nella pancia? Vi collocate nel cuore? Vi collocate in una zona diffusa in tutto il corpo? Vi collocate al centro della vostra scatola cranica? Siete lì dentro voi? Beh, se voi siete lì dentro, è probabile che in realtà si possa fare un download, un trasferimento della vostra coscienza in un altro contenitore. È un po' come quando caricate in una chiavetta il contenuto di un vostro lavoro. Quello siete voi, e potete infilare la chiavetta in un altro computer e riaprite il file. Ecco, il file della vostra esistenza, la vostra coscienza, dove lo vedete collocato? fatto. Secondo voi, se fosse possibile fare il trasferimento, il download, dove vorreste che fosse trasferito? Immaginate un po' voi. Ci sono persone che impegnano fortune per fare rifacimenti corporei, per fare cambi di genere, per fare aggiustamenti del loro involucro che gli è stato dato sin dalla nascita. Beh, sarebbe facilissimo, sarebbe assolutamente importante. Io mi piace una persona e voglio andare nel suo corpo. Certo, bisognerebbe negoziare il fatto che quella persona andrebbe tolto il cervello, ma magari si può fare una banca dei cervelli. Quelli che donano il corpo per motivi di bisogno si mantengono in coscienza e rimangono in una macchina che tiene in coscienza i cervelli. Sto andando avanti, sto galoppando, ma tutto questo vi rendete conto che però annulla completamente ogni senso metafisico? E dov'è Dio in tutto questo? E dov'è l'aldilà? E dov'è la creazione? Se il nostro cervello è una coscienza che può essere trasferita, beh, una coscienza può essere praticamente elaborata, estratta anche dall'ultima massa organica che è la materia cerebrale. Quindi alla fine saremo un file, e il file può andare dappertutto, il file può essere sparato dappertutto, il file può essere rimesso da qualsiasi altra parte. E quindi anche i paradisi potremmo crearceli, e potremmo, come in un bellissimo telefilm di Black Mirror, inventarci il paradiso, inventarci il nostro al di là. 800 24 00 24, preparatevi a farvi trapiantare il cervello in qualunque altro posto dove vogliate. Melog, cronache meridiane. Sì, dottor Maier, operiamo. Il primo trapianto di cervello nella storia della medicina. Dottor Maier, colleghi, vi prego di dimenticare subito che questa è finalmente la realizzazione pratica sull'uomo di tutti i nostri studi, delle nostre esperienze, dei nostri sforzi comuni. Stiamo forse infrangendo una frontiera oltre la quale non sappiamo esattamente quale sia la nostra nuova dimensione. Cosa intende dire? Dico che forse abbiamo troppa fretta. Forse dobbiamo cercare ancora altre risposte. Stiamo avviando un'epoca di totale manipolazione dell'essere umano. Questo è lecito? Qual è il limite della scienza? O non esiste un limite? E come potremmo tornare indietro se fossimo costretti ad ammettere di avere sbagliato? Pensate, questo era uno sceneggiato della TV del 75, Gamma, e già si ponevano questi problemi. Trapiantiamo il cervello, violeremo delle leggi assolute, lo potremo mai fare? C'è sempre questo problema qua. Nel nostro immaginario c'è sempre, visto che vogliamo scambiarci, visto che nel cervello probabilmente noi collochiamo la nostra coscienza, il nostro modo d'essere, il nostro percepire il mondo, la nostra memoria. Noi siamo la nostra memoria, siamo i nostri ricordi, siamo la nostra esperienza. Dov'è l'esperienza? Boh, dove me la sento io l'esperienza? Sui polpastrelli me la sento in questo momento, me la sento nell'apparato fonatorio che vi parla, me la sento negli occhi che guardano, però alla fine c'è sempre il cervello che muove tutto, quindi vorrei trapiantare il mio cervello. Giovan Battista, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Sì. Allora, per rispondere alla domanda che hai fatto, la mia coscienza io la sento nel cervello, ma credo che sia una cosa condivisa, nel senso che certo che le emozioni si sentono nella pancia, si sentono i brividi alle mani, sulla pelle, però secondo me la coscienza nel cervello lo sento sia razionalmente che emotivamente, onestamente. Non so se condividi. No, strumenti scientifici, sì, io penso tutto parta dalla testa, perché mi sembra, ormai noi siamo abituati a applicare la metafora delle macchine che usiamo ogni giorno per relazionarci con il mondo, con quello che siamo noi, eravamo noi. La testa è il centro operativo, e questo è il fatto, il sistema operativo parte dal cervello. Se stacchi il cervello si fermano tutte le periferiche, il resto è periferica. Poi al di là di questo dobbiamo capire esattamente in cosa consiste questa operazione. Viene trapiantato il luogo della coscienza, quindi la persona si risveglia in un altro corpo, però si guarda come nel film Avatar. Questo, c'era una sorta di trasferimento della coscienza da un posto all'altro. La coscienza è racchiudibile in un file, in fondo sono impulsi elettrici la nostra coscienza. Qualcuno riesce a immagazzinarla, può essere trasferita. Ma lei dove se lo farebbe trapiantare il cervello, fosse possibile? Ma il mio pensiero era più provocatorio, nel senso che io sono eterosessuale, però mi è venuto in mente tutti gli omosessuali, più che altro a livello di identità sessuale, se non di preferenza, che vorrebbero essere donne che si sentono donne, o viceversa, donne che si sentono uomini, e magari questa operazione, se un domani fosse semplificata, se fosse non una cosa di routine, una cosa... Cioè si eviterebbe una transazione di tipo chirurgico, che è lunga, dolorosa, sì, uno cambia il cervello, sì. Ma io Questo sì, questa è una delle possibilità, ma anche una persona, io ho 60 anni, essere rimesso in un corpo di un ventenne mi piacerebbe, il cervello non lo sento ancora così corrotto da dire tanto il cervello ti è andato in pappa, però il corpo di un ventenne è una figata, figuriamoci, ricominci da capo, però magari ce l'hai a 30 anni l'Alzheimer, però non lo so, adesso potrebbe essere così. Giuseppe da Cesena. Sì, buongiorno. Sì. Nicoletti, io ascolto molto sempre, quasi sempre, sì, Radio 24, sì, però mi diverto da un po' di tempo per star male, perché sennò non si può star sempre bene, sì, Radio Maria. Mi piacerebbe poter essere trasferito nella testa di Padre Livio. Cioè nel corpo di Padre Livio? No, le spiego il perché. Ma la testa, ma nel corpo, nel corpo. Ma nel corpo di Padre Livio, perché la testa è la sua o no? No, la mia testa avrei piacere che andasse nella sua testa. Ma no, è uno o l'altra, la testa non tiene due cervelli, o uno o l'altro. No, no, togliamo il cervello di Padre e Livio, ci va il suo. Nella testa di Padre Livio ci va il mio cervello. E lei diventa Padre Livio, si alza la mattina vestito, esatto, da prete. E io sputtano tutti i giorni per tutte le cazzate che dice Padre Livio. Adesso che ha fatto... La soddisfazione è quella. Sì, però Giuseppe, adesso che ha fatto questa uscita totalmente idiota, invece di dire una cosa intelligente, si sente meglio, si tenga il suo cervello nel suo corpo, che non credo sia ambito ad altre persone, anche Padre Livio non sa che fanno. Lei ha sprecato un'occasione all'inizio della trasmissione per dire una cosa intelligente, ha detto una cosa talmente stupida, vuole fare una battuta, non fa nemmeno ridere. Marisa, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Sì. L'ascolto. Sì, abbassi la radio perché sennò si sente doppia. Ecco, no, niente, io volevo dire questo, che il mio file è nel mio cervello, è il mio cervello, però non credo che sarebbe una cosa positiva passare tutto ciò che quel file, cioè la vita esperienziale, la vita culturale, la vita emotiva, passarlo in un corpo diverso. Tipo, io ho 65 anni, venisse passato su una persona di, non so, 25, 30, 40 penso una gnoccona anni, di 20 anni. Se segue quell'esperienza, probabilmente sarebbe un trauma. Sì, un trauma. So, lei pensi di svegliarsi domattina nel corpo di una ventenne? Ma non è il problema, non sarebbe mio, perché... diciamo, io sono atea, laica, quindi non credo nel futuro. È perfetto, immagini questo. Della vita. Però sarebbe bello pensare, io continuo a vivere, ma quel corpo potrebbe seguire la mia esperienza di vita o sarebbe dilaniante? Ma dilaniante, ce la rimette dentro, scusi, lei con la sua... abbassi la radio, con la sua esperienza di vita, con un corpo, ricomincia da capo, finché non si rincoglionisce definitivamente. Lei può avere un corpo per altri 30 anni giovane e avere una vita attiva. Sarà il mio corpo 30 anni più giovane, ma il mio cervello non so se sarà più 30 anni più giovane. Beh, il suo cervello rimane quello che è, ma siccome il cervello si deteriora un po', cioè prima si comincia a avere le rughe, poi ci vengono gli acciacchi, poi viene la prostata, poi vengono altri problemi, poi alla fine uno si accorge che si rincoglionisce. Ma bene, guardiamo cosa succede, dai. Vabbè, in bocca al lupo. Giuseppe Neri, buongiorno. Ciao Gianluca. Neuropsichiatra, past president Società Italiana Neurologi Ospedalieri. Facci capire bene, Beppe Neri, tu che sei uno scienziato. Il trapianto del cervello è uguale al trapianto della testa. Cioè, questo signore cosa vorrebbe fare, se tu allora, l'hai capito? Ti ringrazio per l'insulto, nel senso che scienziato proprio mi sembra assolutamente sono un medico che si occupa da una trentina d'anni di sistema nervoso. Beh, però ragioni in nome della scienza, non della fantasia. No, figurati, no, però il discorso è che per noi che un pochino per ovvia dimestichezza con le malattie del cervello bazzichiamo il campo, è un riproporsi per l'ennesima volta di una storia che questo collega da una decina d'anni va proponendo. Allora, uno, non mi risulta che sia più un medico ospedaliero, mi risulta che lavori a Harbin in Cina e che abbia una collaborazione con l'Arizona dove, guarda caso, ci sono le banche di cadaveri congelati di quelli che credono di poter essere salvati in futuro. Quindi uno dei tanti business che ci stanno dietro è la possibilità di prendere un corpo congelato, un cervello congelato, metterlo insieme con un corpo giovane e garantire a chi si è salvato pagando alcuni milioni di dollari la possibilità di rivivere. Questo incrementerebbe il mercato dei criogenizzati. Il problema è che tu hai colto perfettamente perfettamente che io ritengo, ahimè, avendo letto un pochino di cose, soprattutto sulla stampa laica, perché se uno va a cercare le riviste riconosciute a livello internazionale e la cui pubblicazione è sottomessa a un pannello di esperti, di questo tipo di lavori che questo... Non c'è niente, questo l'ho detto subito, non c'è evidenza scientifica. Il problema è che c'è un grosso business invece, e guarda caso io ho la sensazione che faccia parte di quel business che fa sì che certe cose, come la cronaca recente ci insegna, si fanno in Georgia quando non si possono più fare in Italia, o si passano in Bielorussia, eccetera eccetera. Ma nello specifico il discorso è terrificante, perché delle due una: in Italia si fanno i trapianti di cuore, di fegato, di polmone su persone che hanno malattie di quegli organi, e il requisito perché possa essere donato l'organo è che il paziente sia clinicamente morto, vuol dire che il suo cervello non è più in condizione di funzionare perché ha subito dei danni irreparabili. Quindi noi cervelli buoni non ne troveremmo. Allora si tratterebbe il cervello di una persona che qualcuno ritiene che abbia il cervello tutto e perfettamente sano, ma una malattia gravissima o mortale nel resto del corpo, che si ritiene sempre ipoteticamente, un incidente potrebbe essere, il cervello viene montato sopra a un donatore. Certo. Il quale cosa, in collaborazione con Daesh, viene decapitato là per là? Beh, infatti, la possibilità infatti, di avere una infatti, Beppe, doc nella stanza accanto? I corpi li forniscono i cinesi, come sai, usano i condannati a morte già per fare i trapianti, e questo è storico, gli espianti vengono fatti. Senza entrare nella cosa più interessante, cioè che senso avrebbe, se voi gli ascoltatori potranno parlare di che senso avrebbe, io dico che la comunità scientifica internazionale da 15 anni almeno, anzi dagli anni 70 quando White lo faceva negli Stati Uniti, e da 15 anni almeno chiede evidenze che ci sia una fattibilità almeno sull'animale. Non basta dire l'ho fatto, certo, devi dimostrare come, e deve essere ripetibile. In assenza di questi criteri parliamo di qualcuno che si autopromuove. Questo l'abbiamo già dato per scontato. La cosa interessante che ci dice Beppe Neri, che in realtà collega, ma infatti lo dice in un'intervista, è una grande speranza per le persone criogenizzate. Esiste in Arizona questo grande deposito in cui, sì, le persone vanno ancora a farsi criogenizzare, costa un po' meno congelare soltanto la testa, costa un po' tanto mettere dentro l'azoto liquido tutto il corpo, c'è un procedimento abbastanza complicato, bisogna iscriversi a una lista, nel momento in cui si muore bisogna immediatamente agire, abbiamo già fatto una trasmissione su questo, dall'Italia non è possibile, però bisogna collegarsi tramite Londra con una organizzazione, insomma l'istante che schiatti ti mettono il ghiaccio e ti arrivi in Arizona con la speranza, ti mettono in un silo pieno di azoto liquido e stai lì e aspetti. C'è gente che aspetta da decenni, e in effetti questo dottor Canavero potrebbe dare a loro una speranza di essere resuscitati, ma soprattutto dovrebbe incrementare le persone, visto che se ne parla un po' meno ultimamente di criogenizzazione, dice beh vedi ci stanno riuscendo, tanto vale che mi iscrivo a questa associazione, pago la mia quota mensile, pago la mia retta per il congelamento per l'eternità. Ci fermiamo un istante, poi riprendiamo, il tema si fa interessante. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15.30 tutti i giorni su Radio 24. Melog, cronache meridiane. I problemi giuridici, etici, morali attinenti al caso sono alle nostre spalle, altri li hanno risolti per noi. Ho dovuto vedere lui, quell'uomo, per capire che il problema è soltanto questo. Noi gli sostituiamo la mente, ma quando si sveglierà... No, non si sveglierà affatto se perdiamo altro tempo. Quell'uomo è morto, morto. Questo non è un problema, è una realtà. D'accordo, Rademacher. Non sono affatto sicura che ciò che stiamo per fare sia solo medicina, ma non importa. Piuttosto. È chiaro che nel 75, questo è Gamma, ricordo, il problema soprattutto era di tipo etico, dato per scontato che la fantascienza e la scienza poi avrebbero raggiunto comunque un punto di equivalenza, Il problema è etico, stiamo facendo qualcosa che non è permesso fare, ma la stessa cosa si diceva anche al tempo del trapianto di cuore, quando operò il dottor Barnard fu la notizia, mia nonna piangeva, l'umanità non sarà più la stessa, trapiantano il cuore, pensava che dentro il cuore c'erano i sentimenti, poi i bambini non volevano più bene alle mamme, poi invece mamme e bambini hanno continuato a sopravvivere lo stesso e tutti strapiantano ciò che serve. Però il cervello no, il cervello è rimasto una sorta di sancta sanctorum, al di là delle difficoltà tecniche di farlo, c'è qualcosa di più, perché si trapianta il cuore, la gente fa gli spiritosi, dice vorrei trapiantarmi il fallo di Rocco Siffredi, ma già è possibile, il trapianto di pene è stato fatto, è stato trapiantato un po' tutto, no, il cervello no, è l'unica cosa che non si è trapiantata, perché? Perché è qualcosa di diverso rispetto a ogni altra nostra periferica. Giuseppe Neri, mi ero interrotto con te poco fa, volevo capire esattamente, solo per dire quali sono le difficoltà alla luce di quello che oggi un neurologo sa del cervello, le difficoltà maggiori per fare questo tipo di trapianto. Ma ancora una cosa non ho capito, devono aprire la testa, svuotarla del cervello o tagliare la testa e impiantare tutta la testa? Allora no, mi permetto di obiettare dicendo non parliamo di periferica, qua parliamo di scheda madre e di processore. Allora, la tecnica è una tecnica di Guillotin, cioè testa tagliata al collo sì, e ricollegata al livello del collo. Quindi, la faccia rimane il donatore di cervello. Sì, appunto, per cui voglio dire... Già cambia qualcosa. Uno dei problemi fondamentali, che parecchi autori americani, se tu fai una ricerca, trovi una serie di obiezioni, sia di singoli ricercatori in campo medico, sia di giornalisti negli Stati Uniti, che dicono, ma prima mi devi dimostrare che tutto questo sia fattibile, non dire l'ho fatto, ma come l'hai fatto e come altri possono riprodurre quello che tu dici di aver fatto una volta nel topo e una volta nella scimmia. E poi il guaio grossissimo in questa situazione è che l'atteggiamento di chi propone questo tipo di tecnica è: l'ho fatto io, come dico io, a me è riuscito, quindi funziona. Beh, Stamina funzionava così. Stamina funzionava così. Quanto di meno scientifico si possa affermare. Allora, però mi sembra che cambi qualcosa a questo punto di vista, perché se ancora quello che annuncia il nostro caro dottore Canavero è qualcosa del genere, significa semplicemente che non c'è questo sogno irraggiungibile, come la signora prima che dicevo, lei si può trapiantare nel corpo di una giovane, no, rimarrebbe sempre la testa di una persona anziana in un corpo di giovane, qualcosa di orribile, assomiglia proprio alla creatura del dottor Frankenstein. Stefano Moriggi, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Filosofo della scienza, autore insieme a Marco Dallari di Educare a Bellezza e Verità, Erickson editore, ma aveva scritto prima Beati quelli che sapranno pensare con le macchine, edizioni San Paolo. Poi qui non si tratta di pensare con le macchine, pensare con la testa di un altro probabilmente. Ecco, in questa sorta di paradosso fantascientifico di cui non abbiamo ancora nessuna, e non so se l'avremo mai, certezza scientifica, ma giochiamo sul paradosso. Immaginiamo due persone, tolgono il cervello a uno e lo mettono all'altra, l'altro rimane un corpo senza cervello, bisognerà metterci un altro cervello, si butta via il corpo, c'è un vuoto a perdere, insomma esiste una classificazione serie A di serie B delle parti umane, e chi dona il cervello butta via il corpo, chi dona il corpo butta via il cervello, chi dei due è svantaggiato, chi dei due invece ha un vantaggio? Beh certo, questo è un bel dilemma che però in parte lo si risolve precisando un aspetto. La fantascientifica, diciamo così, ipotesi del dottor Canavero in realtà dovrebbe chiamarsi trapianto di corpo, perché il ricevente, mettiamolo in questi termini, sarebbe la testa, è la testa che riceve un corpo e non viceversa. Nell'ipotesi, anche a mio parere, cialtronesca e fantascientifica prospettata dal dottore. Consentimi di aggiungere due cose che ritengo molto importanti. Una riguarda la comunicazione di questo presunto nuovo orizzonte della scienza. Sono emerse questioni interessanti sollevate da te e dal dottor Neri. Questa presunta operazione verrebbe effettuata in centri che rispetto alle sedi più autorizzate e più attendibili del mondo sono periferiche. Sono in paesi dove, come avete ricordato, l'utilizzo dei cadaveri, che ricordiamolo nella storia della scienza, è sempre stato importantissimo, dalle lezioni di anatomia in avanti, basta ricordare il meraviglioso film di John Landis sui ladri di cadavere, ma in paesi in cui l'utilizzo dei carcerati e conseguentemente dei cadaveri è per potremmo definirlo quantomeno disinvolto. Basti vedere i dati di Amnesty International nel 2004, appunto, circa i condannati a morte in Cina. Ce ne eravamo anche occupati qualche anno fa. Ma una cosa mi interessa sollevare e porla anche come questione al dottor Neri. Di recente la neurofisiologia e anche alcune, diciamo così, settori della filosofia della mente ci hanno cominciato a far ragionare attorno al fatto che la coscienza non sia semplicemente una cosa, ma piuttosto, diciamo così, l'interazione, la risultante dell'interazione tra il nostro cervello, il nostro corpo e il mondo che sta fuori. Allora, se le cose stessero veramente così, ci si sta ragionando, allora il cervello è qualcosa che rende possibili tutte quell'insieme di relazioni che intratteniamo con l'ambiente esterno. E quindi noi, la nostra coscienza, quello che diciamo quando diciamo io, non è semplicemente il nostro cervello, che per carità ha pur sempre il ruolo di protagonista, ma ce l'avrebbe interagendo attraverso il nostro corpo con il mondo fuori di noi. È quello che voleva dire la signora, in effetti. La signora prima, che ho interrotto, voleva più o meno dire questo, dire: ma io che ci faccio con un corpo che non ha l'esperienza che ho avuto io? Ragionando potrebbe averci un senso, però aspetta un attimo, prima che risponda Beppe Neri c'è Marco, di dire qualcosa proprio su questo tema. Marco, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. L'ascolto. Ma io parlo dal punto, sono naturopata, parlo da un punto di vista quindi olistico, cioè nella visione del corpo nel suo insieme, quindi cervello, corpo e spirito. Ma mi sembra aver capito che le possibili soluzioni sono due: o io ho un corpo malandato, quindi mi serve un altro corpo e mi impiantano il mio cervello in un corpo sano, oppure viceversa, ho un cervello, per dire, con un tumore, però il corpo è sano e a questo punto ho bisogno di un cervello sano. Ma in entrambi i casi... Già, però lei dove sta, nel corpo o nel cervello? Io sto dappertutto nella mia visione, nel senso che tutte le cellule del corpo hanno una loro memoria. Se io mi rompo una gamba, quella gamba sarà sensibile, perché le cellule della gamba hanno memorizzato il trauma che ha subito. Se io cambio il cervello, questo le mani l'hanno trapiantate, le mani, le orecchie, il cuore, certo. Fegati, non è morto nessuno. Certo, però ovviamente c'è comunque un disallineamento, c'è solo una funzione meccanica che viene ripristinata, tutta la parte diciamo psicospirituale viene a prescindere da questa soluzione. Vabbè, no? Secondo lei più o meno d'accordo con quello che dice Morigi, che la memoria non è soltanto il cervello ma è la nostra esperienza cellulare. Sentiamo Giuseppe Neri, su questo ha qualcosa da aggiungere o da dire su questa coscienza diffusa. Sì, Stefano Morigi, sì, che mi ha preceduto, hanno colto un aspetto essenziale, cioè il dramma del rapporto storico fra chi si occupa della medicina, dicendo come funziona il nostro corpo, come si ammala, come lo possiamo curare, e chi invece fa il chirurgo, è questo aspetto meccanicistico tecnico, cioè ci sono delle persone che hanno delle abilità straordinarie nel muovere le mani. Il problema è che bisognerebbe sapere questo movimento delle mani, cioè questo atto chirurgico, che senso ha rispetto alla persona che lo subisce. Allora, questa persona ha una storia che è passata attraverso il suo corpo, attraverso le esperienze che ha fatto, le sensazioni fisiche, le emozioni, che sono tutte transitate per il canale del corpo, che è tutto permeato di sistemi di ricezione e trasmissione dati che vanno al cervello. Quindi questa inconciliabilità, secondo me, resterebbe e sarebbe di fondo. Per cui torniamo indietro di due secoli a Shelley e siamo veramente in un modello Frankenstein. I giornali americani... Cioè non è così semplice dire tolgo il cervello... Il neurochirurgo non si stupisce, anzi è contento di essere chiamato Dr. Frankenstein. Sì, però come vedi hai colto nel segno, lui già contraddice quello che ormai è una realtà scientifica, che la coscienza sia abbastanza diffusa, che le cellule hanno la loro memoria, che il cervello controlli tutto questo. La fa molto semplice, sembra che stacchi il cervello, lo metti dentro una boccia di vetro come nei Simpson, capito? E questo è la persona. No, la persona è anche qualcos'altro. Assolutamente. Allora, Stefano Morigi, andiamo avanti ancora. Quali dogmi assoluti, visto che l'amico lista prima ha tirato fuori la coscienza, l'anima, verrebbero contraddetti da questa scoperta scientifica, ammesso che sia una scoperta scientifica, cosa che al momento non abbiamo tipo di evidenza? Sì. Anzi, più ne parliamo, che più sembra una cazzata, diciamolo in termini comprensibili a tutti. Come sempre usi i termini scientifici più appropriati, diciamo. Ma consentimi di dire che io non mi riconosco molto nel linguaggio del naturopata che ha parlato prima, non parlo di spirito, non parlo di cose, parlavo di un contesto che il dottor Neri rievocava molto precisamente, cioè il fatto che la coscienza non è una cosa, non è una secrezione del cervello, mettiamolo in questi termini, ma quello che risulta essere è piuttosto il prodotto di un'interazione gestita, coordinata dal cervello, che però implica l'utilizzo di un corpo, la mediazione di un corpo in un dato mondo, un approccio un pochino diverso che ci consente anche di rivedere tutta una serie di categorie, a partire da quella dell'identità, dentro la quale il corpo, per esempio, comincerebbe ad assumere un ruolo un pochino più importante rispetto a quella visione della medicina e della generale, diciamo, in cui invece noi eravamo solo ed esclusivamente. Ma se non fosse così, chi ha una crisi di identità per questo vuole cambiare il proprio corpo, perché non si riconosce, non sente come suo quel corpo. Non è una questione di oggetti, è una questione di interazioni. Evidentemente il corpo che ha non interagisce con il mondo nella maniera in cui lui vorrebbe sentire il mondo, può essere così? Può essere così, però comunque questa, diciamo così, questa svolta, questo cambio di paradigma su quello che noi intendiamo essere la coscienza, sicuramente ci porta a ripensare tutta una serie di categorie su come noi stiamo al mondo, su cosa noi diciamo quando effettivamente diciamo la parola io, e quindi in qualche modo verbalizziamo la nostra coscienza, ed è qualcosa di diverso da quando si pensava che noi fossimo esclusivamente come coscienza la secrezione di un organo che è il cervello. Oddio, da un certo punto di vista ci toglie ancora più speranze, perché se la coscienza è ovunque, quando quell'ovunque comincia a decomporsi se ne va anche la coscienza. Se noi invece pensiamo che la coscienza sia un impulso elettrico che secerne il cervello, possiamo sempre avere la speranza che questa scintilla se ne vada poi in giro per l'universo, ma forse non è così. Ci fermiamo un istante, a tra poco. Grandi cambiamenti in vista? Scegli Gondrand Traslochi per il tuo trasloco internazionale. Gondrand.it vi presenta Melog, cronache meridiane. Marco da Treviso, buongiorno. Sì, buongiorno. Ascolto. Io volevo appunto aggiungere un elemento che ritengo abbastanza importante, perché appunto io dalla sua provocazione riguardo alla questione dell'identità, la prima risposta che darei è proprio quella dell'identità residente qualche parte del mio cervello, però mi viene in mente proprio un paradosso, che è quello della barca, cioè una barca viene varata, quindi con tutti i suoi elementi, dopodiché al primo naufragio, la prima tempesta viene sostituita la vela, e via via vengono sostituiti tutti i pezzi della barca. Al termine, diciamo, di tutta questa sostituzione, che poi si risolverà con una sostituzione completa, possiamo dire che la barca è sempre la stessa barca? Dove risiede l'identità di quella barca? Ecco, questo è un paradosso che ricordo. Se io faccio lo stesso episodio con i motorini quando eravamo ragazzini, cambi la testata, cambi il cilindro, cambi il pistone, cambi le ruote, alla fine è lo stesso o non è lo stesso? Esatto. Ce lo dicevamo anche noi. È una bella domanda, Tu come risponderesti, Morigi? Oh, che ricorda l'ascoltatore, è un paradosso noto come il paradosso della nave di Teseo. Ci hanno fatto anche una casa editrice, infatti, su questo. Sì, quello è un altro discorso, ma insomma è la nave di Teseo che è rimasta intatta negli anni, è rimasta la stessa, o si pensa la stessa negli anni, nonostante abbia subito una manutenzione che nel corso del tempo ogni fasciame era stato cambiato, cioè tutti i pezzi. E tu, è ancora lei, ancora no. Stiamo ragionando però ancora e di nuovo con questo paradosso in termini di pezzi, ovvero di organi. Quello che stavo tentando di dire è che forse dovremmo cominciare a pensare la nostra coscienza come il prodotto di interazioni tra organi, corpi e oggetti esterni al nostro organo, al nostro corpo. Forse in questo modo cominciamo a uscire dal paradosso della nave di Teseo e ci orientiamo verso un approccio un po' più fenomenologico alla nostra coscienza. Io so bene per esperienze ormai note quanto la mancanza di interazione alteri anche la capacità di trasferire comunque un'esperienza, di rendere comprensibile quello che è il nostro proprio livello di coscienza. L'interazione è tutto. Noi da quando nasciamo, più interagiamo e più assumiamo consapevolezza del nostro essere, meno interagiamo e rimaniamo qualcosa staccato. Questo è vero, senz'altro, è percepibile. Gualtiero, buongiorno. Buongiorno a voi. Sì. La trasmissione spero solo che possa avere dei seguiti, perché non si riesce sicuramente a toccare tutto. Lo so, cioè, oggi. Col tempo che abbiamo facciamo il possibile. Quello che volevo poter segnalare, a parte che era più importante ascoltarvi, e però per l'esperienza che ho è quella di aggiungere che non possiamo surgelare sicuramente l'anima e tantomeno le esperienze e i sentimenti. Su questo sono pronto a lottare. Però l'anima è un concetto che implica un atto di fede, il cervello è un oggetto, lo possiamo prendere in mano. Giustissimo, giustissimo, ma qui quando viene a essere riattivato tutto l'organo assieme ad altri i pezzi, come avete detto, che sono tutti intercambiabili, io ci credo, è possibile grazie alla chirurgia. Però l'ha detto il medico che in realtà non è poi esattamente così, non è che se toglie il cervello la persona è dentro il cervello, la persona è in tutta l'esperienza diffusa, in tutto ciò che quel cervello comandava, e certo, quindi tutto, anche un po' ho sentito anche dire che le cellule hanno una loro forma di archiviazione e dei gesti e quindi vanno riallineati, tutto sta vero, è verissimo, però rimane sempre il fatto che se non vogliamo ricondurci all'anima, che quando questo... ma lei parla di anima, guardi, è un concetto, non è un concetto universale, anima in chi ci crede che questo si chiami anima, che l'anima sì, sia... Sì. Lei, se parla anima, parla come qualcosa che sopravvive comunque al disfacimento organico, penso, immagino, no? Sicuro. Sì, però di questo, se parliamo in termini razionali, non c'è evidenza scientifica. Ma io penso che la ricerca di un campo non vada allontanata da quella a prescindere dall'aspetto religioso, di quale sia la religione. Sì, sì, però ma questo è d'accordo. Però la religione è un altro naturale. Campo. È un altro campo, però. Adesso stiamo parlando in termini razionali concreti. E quindi va benissimo. Certo, l'anima non c'è bisogno. L'anima non ha bisogno di essere trapiantata. L'anima deve essere solo perfezionata e va collocata la coscienza in ciò che sarà eterno. Benissimo. Ma questa è una convinzione tipo religioso che non rinnego, ma in questo momento c'entra poco, perché sennò il nostro professor Canavero non dovrebbe nemmeno esistere, andrebbe bruciato e impalato per quello che fa. Invece ha libertà di dirlo, vogliamo solo chiamarlo a dirci esattamente attraverso quale metodologia l'ha fatto, e vorremmo metterlo a confronto con quella che è la comunità scientifica. Giuseppe Neri. Sì, appunto, il tipo di situazione che viene a galla adesso è che periodicamente, regolarmente, nel 2013, nel 2015, nel 2017 ci sono una serie di lanci di stampa, di agenzia, quindi i media vengono sollecitati circa la imminenza di questo trapianto. Questa è una strategia della comunicazione che però, con il progresso della scienza in campo neurologico, non so quanto abbia a che fare. Ammesso Beppe che al di là di ogni nostra previsione viene fuori l'evidenza scientifica che è possibile, che essere umano sarebbe dal punto di vista proprio tuo? Dico, avresti avanti, cos'è, uno schizofrenico? Cosa sarebbe fuori? Una persona che improvvisamente avesse il suo cervello in un corpo di un altro? Ti rispondo con una elementare osservazione. Siccome il trapianto di testa, quindi non soltanto di testa cerebrale, ma di tutto quello che è la testa, che significa scheletro, muscoli, cute, allora noi avremmo sicuramente un problema di compatibilità, nel senso che qualsiasi cosa tu trapianti deve essere compatibile, perché se no ci sarebbe un rigetto. E tu sai che i nostri pazienti trapiantati di cuore, di fegato, di polmone riescono a vivere anche molti anni perché prendono dei farmaci immunosoppressivi. Si dà il caso che i farmaci immunosoppressivi somministrati a dei pazienti per lungo tempo danno dei danni cerebrali spesso molto gravi, con malattie. Quindi gli si fotte il cervello che hanno trapiantato, forse, i farmaci. Allora, ammesso che sia tecnicamente, cioè che attacca, che prende, che circola il sangue, ma poi perché non venga rigettato, bisognerà che questo prenda degli dei farmaci potenti immunosoppressivi, e questi hanno un elevatissimo rischio di dare dei danni al cervello trapiantato. E si annullerebbe il senso dell'operazione. Il senso qual è? Ma il cervello è attaccato, scusami, è attaccato al midollo, ma come fanno a attaccare il midollo di un essere a un altro? Mi sembra assurdo. La cosa che appunto il Guardian o il Telegraph in Inghilterra in un'intervista ironizzava era: questo chirurgo dice che lui riuscirà a riattaccare molto bene il midollo perché usa una lama particolarmente sottile e usa il glicole etilerico che consente di riattaccare il midollo. Evidenze scientifiche nel territorio internazionale in merito a questo ancora non ci sono. Davide, sentiamo Davide. Sì, ciao Nicoletti, io volevo solo esporre questa mia idea. Premetto che secondo me un trapianto di cervello, che uno stia scappando da una malattia o stia cercando l'immortalità, sarebbe abbastanza inutile, perché essendo un tessuto organico il cervello ha una durata limitata nel tempo comunque. E poi tanto, e quindi, tanto va sempre in pappa anche il cervello nuovo, esattamente. Diciamo. E quindi già noi mettiamo il nostro passato su Facebook, sui siti, e in America, e non solo, stanno già cercando di mappare il cervello umano, e si è scoperto che anche il cervello risponde a un sistema binario, sì e no. Quindi secondo me il passo successivo della nostra esistenza sarà trasferire la nostra coscienza in un computer, in un'automa, in una macchina che continuerà la nostra esistenza. Diciamo la nostra coscienza, diciamo i dati relativi alla nostra memoria. Avere oggi un profilo Facebook di quasi 10 anni come c'ho io, beh, onestamente è parte della mia vita che io mai avrei ricordato in maniera cosciente e lucida. Quando Facebook ogni giorno ti dice guarda cosa hai fatto 8 anni fa, oggi, beh, ti vengono dei colpi, dico non mi ricordavo questa cosa qua. Quindi già qualcosa di me sta da un'altra parte, questo è poco ma sicuro. Stefano Morigi. Sì, però attenzione, una cosa sono i ricordi oggettivati in un post, un'altra cosa sono le strategie con cui noi più o meno consapevolmente richiamiamo quei ricordi o altri alla nostra consapevolezza o alla coscienza. Sono due cose molto distinte. La strategia è quella del signor Zuckerberg, che ci fa vedere ogni giorno, ma decide lui cosa ricordare io, ecco, di 10 anni fa. Ma come poi il nostro cervello in autonomia rievoca dei ricordi che in qualche modo conservava, ecco, queste sono una distinzione fondamentale che aveva già molto ben chiara Aristotele. Quindi non dobbiamo, come l'ascoltatore di prima, confondere la memoria nel senso dell'atto, della pratica del ricordare con l'oggetto stesso del ricordo. Per cui l'idea di immaginare una qualche piattaforma su cui lui avrebbe voluto eternizzare la sua memoria è molto ingenua, forse ancora di più dell'orizzonte chirurgico del dottor Canavero, perché è una capsula del tempo individuale, che però le cose ce le mette un altro dentro, non ce le metti non te. Solo, ma poi ricordare significa un'altra cosa, non significa solo immagazzinare dei ricordi, ma rielaborarli, averli vissuti in un certo modo e riproporli nel tuo presente attraverso una mediazione che quella piattaforma immaginata o immaginaria al momento non ha e forse non potrà mai avere. Vabbè, al momento una cosa l'abbiamo capita, che perlomeno alla luce di scienza e coscienza, quello che dice il professor Canavero al momento è una grossissima cazzata. Poi vedremo se lui ci dimostrerà il contrario. Alla prossima.